Adesso siamo anche collegati. Mi vedi tu, Vittorio? Bene, bene, grazie. Senti, Praticamente stiamo cercando anche, sto cercando anche di... Renan, mi senti? Ti senti? Ti sento, Vittorio? Ti sento, Vittorio? Ma ti scrivo pure, vedi? Ti sento. Renan, mi senti? Ti sento, Vittorio, ti sento e ti vedo. Prima ti sentivo. Mi senti tu Adesso adesso? dipende da te o da me. No, penso che dipenda da che. Fondamentale. Penso che dipenda da te. Allora, aggiungi persone, vediamo un poco chi ci sta. Chi c'è? Allora, ragazzi, sono in collegamento Skype con Vittorio Ricciardi. Vi aggiungo alla conversazione. Uè, Vittorio? Mi senti, Vittorio? Vittorio, mi senti? Vittorio? Vittorio, mi senti? Mi senti, Vittorio? Io ti sento e ti vedo. Vittorio?